quello che mi ricorderò di più, proprio come stereotipo, in cui se vuoi ci ritrovo adesso anche io dall'altra parte, era proprio quando lavoravo da giovane nel bar e magari mi capitava nel pomeriggio di essere da solo. È quella persona che ha bisogno di conforto, di staccare dalla sua vita e vede in te un tramite non identificato, cioè per cui non esiste nessuna norma o convenzione sociale di pudore, quindi lui si sente libero e legittimato in quanto consumatore di poter parlarti senza aspettarsi nessuna risposta, nessun consiglio, solamente come sfogo ultimo i problemi della sua vita di varie nature. Poi tipicamente sono d'amore nei confronti della donna, però non limitati solo a questo. Da quello che viene da te da solo, prende una birra, parla, ne beve un'altra, parla, tu passi tutto il tempo a dire sì, certamente, dove non lo contraddici, non fai domande, tanto non ce ne sono bisogno perché, come sto facendo io adesso, è un flusso di coscienza fatto di aneddoti più o meno esagerati, più o meno consapevolmente, e si conclude poi con lui che paga soddisfattissimo e se ne va. E però magari non lo vedi più. Cioè lui ha dedicato alcuni particolari così intimi nella tua vita a te, che ovviamente non è che potevi neanche stare fermo, quindi prendevi, arrivavi, lavavi le tazzine, però in quel momento tu lì esistevi, il semplice fatto che eri obbligato ad ascoltarlo, perché sarebbe molto sgarbato anche dire guardi francamente mi interessa molto poco se può bere la sua birra in silenzio come fanno mediamente il resto degli avventori, no? Però non lo fai e quindi stai alla tua parte, no? Il fatto quindi del barista come entità onnisciente, non giudicante, no? Liberatoria, catartica, e soprattutto che come se tu ti aspettassi che lui non stesse davvero ascoltando, che lui non riferirà, no? Perché poi è così staccato magari a quello che è il tuo mondo che comunque non ti interessa, non ti poni neanche il problema. Questo penso sia uno stereotipo abbastanza comune. Tanto che a me vengo qua e parlo con Francesca, ma non perché voglio parlare, per l'idea solo di poter parlare, di poter avere questo porto franco, umano, con un contatto umano, e appunto non soggetto a un giudizio, non soggetto a un rifiuto, per il semplice fatto che per norme di comportamento del barista lui non sarà mai sgarbato con te, insomma, entro certi limiti. Poi mi prestavo molto anche a essere paziente. Hai preferito a una questione che è un po' mi trascende, cioè dipende dallo spazio, dal tempo, quindi non starei a scomodare questa cosa che mi metterebbe parecchio in difficoltà, quindi partiamo dal qui ed ora, da quello che ho davanti, che è un drink, un London Mule, un Moscow Mule fatto col gin anziché con la vodka, che non è, insomma, abbastanza fresco, si prestava bene, non è che abbia una grassa. Parlare di alcol è una cosa che mi mette tantissimo in difficoltà, perché da un lato non mi definirei esperto, però sicuramente estimatore, conosco un sacco di aneddoti e mi piace bere, ho una discreta cultura, anche questo è un termine un po' improprio, però sicuramente mi piace, ho bevuto tanto quanto, però non ne vado fiero, cioè nel senso sono sempre molto preoccupato dell'immagine che viene data all'alcol, che comunque è una sostanza che ha insomma degli effetti, una sostanza psico, cioè nel senso alla fine noi beviamo, c'è tutta un'aura, no, di so come dire, anche dietro il vino, no, di tradizione, di cultura, di storia, però sostanzialmente noi non è che si beve per cultura, cioè questo viene un po' mascherato il fatto che comunque sia dentro dell'alcol etilico, cioè se non so, un Barolo buonissimo non avesse dentro l'alcol, fosse una bevanda analcolica, lo berremmo davvero? Avrebbe ancora tutto quel valore, no? Cioè quanto comunque l'aspetto psicotropo è separato, no? E secondo me per troppo tempo c'è stata una retorica un pochino che l'alcol fosse un qualche cosa che andava bene, che esisteva una giusta misura, una giusta moderazione. Facciamo finta, mettiamoci in un mondo dove riusciamo ad ottenere sinteticamente lo stesso identico sapore della bevanda alcolica, però riuscendo a togliere l'etanolo, riuscendo a togliere l'alcol, no? Berremmo ancora? Cioè tu la birra analcolica la bevi perché ti piace il gusto, ti piace la convivialità del gesto, o comunque il fatto che per quanto poco ci sia dell'alcol, no? Non so, adesso non è che volesse arrivare a un dunque, però a me, ad esempio, una cosa che da certe cose mi fa piacere, cioè nel senso, mi sto anche avvicinando un po' di più al vino, sto approfondendo, mi piace, però tanto quanto non è una roba che io, cioè come dire, ritengo né così caratterizzante della mia vita, ma quasi più una cosa di cui mi vergogno, ecco, di cui non vado fino, cioè non, e ho molta paura anche di entrare parte in un meccanismo in qualche maniera di sponsorizzazione, di emulazione, cioè tante volte le dipendenze, pensando anche alle sigarette, ma io sono un ex fumatore, ho fumato per quasi 9 anni, insomma adesso ho smesso di fumare. E quanto è la sigaretta in sé la dipendenza dalla nicotina e quanto invece poi è tutto il mondo costruito principalmente dalla pubblicità, dal marketing, dai film, no? Di quella cosa che la sigaretta ti dà, ma che non è che ti dia effettivamente, materialmente, ma è tutta una questione di testa, cioè l'immagine che dopo la scena di sesso ti accendi la sigaretta, cioè questa immagine dell'uomo vincente, dell'uomo forte, dell'appagamento, oppure finisco di mangiarmi fumo, cioè sicuramente sarà un connubio, no? Di, come dire, non so come dire, fisiche, no? Di dipendenza effettiva da nicotina, ma tanto secondo me la grossa paura che uno ha quando smette di fumare è di perdere quasi qualche cosa della sua personalità, cioè uno vede tanto legato, c'è anche sicuramente una gestualità, una consuetudine, un senso anche di tanti piccoli gratificazioni, un senso di rewarding, però secondo me tanto invece anche robe che non hanno in verità nulla a che fare con la realtà oggettiva, ma è solo proiezione, cioè marketing, la pubblicità, no? Che vendeva questa cosa. Io vedevo recentemente uno spezzone della carica dei 101, cartone Disney, che vedevo da bambino, insomma, poi avevo fatto vedere. E lì effettivamente c'è il protagonista, di cui adesso non mi viene in mente il nome, insomma, il papà della coppia che poi avrà la carica dei 101, personaggio tutto sommato venuto come positivo, un bel personaggio a modo, no? Che comunque e fuma la pipa, e questo suo fumare la pipa è suo molto caratteristico distintivo, quindi passa un messaggio in qualche misura molto positivo legato al gesto, ma che non ha nulla a che fare, però da un bambino motivo perché adesso queste cose qua non esistono più, no? Però secondo me questo fa tanto nelle mode, nelle sostanze, cioè il motivo per cui tante alcune sostanze magari sono nel corso della storia o banalmente della geografia, cioè che in alcuni posti sono tollerati, in altri meno. Vedi l'alcol ad esempio, molto tollerato nel mondo occidentale, è considerato una cosa quasi abominevole in alcune parti del mondo orientale, anche qua poi dovremmo entrare a vedere, però quindi un po' nel tempo che anche lì l'alcol ha subito momenti, diciamo, più o meno tolleranza rispetto nei governi, nelle culture, no? Ma anche poi nella geografia, appunto, stesso periodo storico, realtà differenti sono più o meno tolleranti, quindi quanto è la sostanza e quanto poi è tutto il costrutto che ci sta attento. Ora, io non è che voglio arrivare qua a dire che uno non deve bere, cioè è un discorso molto più complicato, però che sicuramente l'alcol per una questione culturale del nostro mondo occidentale è sempre stata considerata in qualche misura tollerato e in alcuni contesti ancora più pericoloso come positivo. Cioè a me aveva colpito molto a settembre, è stato il compleanno di mia nonna, vado, non mi ricordo neanche se a pranzo da lei, a pranzo, e mi fa: ma perché non bevi? Cioè il mio compleanno, cosa fai? Non festeggi, cioè non prendi parte a questa cosa. E questa tra tutte è tra le cose che più mi fa paura, quando tu inizi a fare una cosa perché della realtà circostante te la fa passare come un voler bene, quindi tu perdi una vera criticità, cioè non rifletti neanche più, semplicemente c'hai degli affetti, hai delle persone che ti sono vicine, una serie di robe che ti portano a dire che una certa roba è fare in qualche modo del bene. Cioè mia nonna era contenta che io avessi bevuto, non il fatto che io avessi iniziato ad assumere una sostanza, a pranzo, poi adesso sembra sempre che esagero e faccio una vita tremenda dove iperanalizzo, però a me questa cosa qua fa paura, dico quante abitudini, no, vengono passate nella tradizione e uno le subisce pensando, non so come dire, che siano un valore positivo, che ti sono passate attraverso delle persone che ti vogliono bene, che tu lo fai per non offendere chi ti sta attorno, no? A me questa è una cosa che è sinistra, adesso a prescindere dalla sostanza alcolica in sé, no? Però di dire quanto noi siamo condizionati da questo, quanto noi facciamo le cose perché vengono considerate positive da chi ci sta vicino, quindi non farle sembra fare un torto a loro, e perdiamo la criticità rispetto a quello che stai dicendo. Dici, cazzo, a pranzo io non voglio bere, perché guarda, ho un periodo difficile della mia vita, quindi ogni tanto mi capita anche di bere spesso, quindi per me non è bello bere a pranzo, sarò anche io non particolarmente capace di gestirmi, però comunque una cosa che poteva anche essere vista molto positiva, la mia, c'è anche un senso di maturità, di imparare a gestirsi, che invece veniva totalmente trasmutato poi nel candidore di una persona che è comunque molto anziana, quindi non avevo neanche voglia poi sicuramente di entrare in questa discussione, quindi ho bevuto e ho reso felice delle persone, no? Ma questo però è, secondo me è tremendo, cioè è un punto secondo me devastante. Io ad esempio, vabbè, questo è un discorso che a me sta molto a cuore, perché da tanto tempo mi chiedo, ma com'è possibile che quando si esce l'alcol comunque è sempre una componente quasi imprescindibile, no? Volente o nolente, cioè non è l'aspetto cruciale, non è che noi ci vediamo solo per bere, però c'è, e quando non c'è spesso ne senti la mancanza, comunque un certo fastidio. Io invece tante volte vorrei avere anche tante altre situazioni dove non bevo, però mi rendo conto che per la cerchia di persone che conosco, che non sono dei degenerati tendenzialmente, sono persone che hanno delle vite tutto sommato funzionali, no? Hanno un lavoro, hanno una famiglia, hanno delle relazioni sociali, quindi non sono neanche a un livello, diciamo, dove il rapporto con la sostanza ha portato alla deprivazione di tante cose della vita quotidiana, però dove comunque il non avere da bere una sera rappresenta un problema, oppure semplicemente non rappresenta un problema perché non è neanche considerabile l'ipotesi, no? Nel senso, o per un motivo o per l'altro, comunque c'è sempre qualcuno che pensa a portare delle, anzi tante volte c'è sempre una sovrabbondanza, cioè vai a cena da qualcuno e molte più le persone che portano da bere che non qualcosa da mangiare o il dolce, quindi cioè il problema non si pone mai neanche, perché tutti facciamo in modo che questa cosa qua sia un'eventualità che non ci troviamo mai ad affrontare, inconsciamente probabilmente. Però invece, che sono critico per un passato personale, quindi a me ad esempio invece non riuscire ad essere in totale controllo mi fa paura, motivo per cui io posso alcuni momenti a bere tanto, altri momenti in cui anelo invece a un'astemia per una questione puramente personale, no? Adesso ho anche perso il filo del discorso, però sto dicendo, sicuramente cioè, è un discorso complicatissimo, perché il fatto che sia socialmente accettato e anche inquadrato, come dire, anche il caffè, no? È una sostanza potenzialmente, cioè, che, ad esempio, io anche il caffè lo bevo mediamente tanto, da tantissimo tempo. Se un giorno non bevo il caffè mi viene male di testa, però non la vivo male, né vivo tutta questa esigenza, perché non succede mai che non bevo il caffè, quindi non vivo mai l'astenia, cioè non la vivo mai come un problema, perché ormai è diventato quotidianità. Se invece non fosse come dire, facilmente raggiungibile per me avere un caffè, cioè lo compro al supermercato, ce l'ho tutti i giorni, e se non ce l'ho vado giù al bar e lo compro con un euro, quindi con una cosa che non mi tocca né finanziariamente né a livello di sbattimento della mia giornata, cioè non è che devo farmi un giro assurdo. Se invece io al quarto giorno che ho il mal di testa perché non bevo il caffè, vorrei vedere in un mondo dove non c'è più caffè che sbattimenti inizierei a farmi pur di berlo, no? Allora lì forse ne avrei anche più consapevolezza e impatterebbe maggiormente sulla mia vita. Non è che le opportunità per bere da solo in casa o in altri contesti mi manchino, non è sempre detto, cioè capita anche che tu entri distrattamente perché vuoi bere, perché stai per vedere con, non so, un incontro e comunque vuoi esclusivamente consumare. Se vogliamo scendere nella realtà specifica, questo invece è un bar che secondo me per la maggioranza dei consumatori, me incluso, vieni, il bere è un po' un di cui, è un collaterale, se vuoi anche una cosa che comunque unisce e porta avanti, ma non è l'unico motivo. Vieni perché vuoi uscire da casa tua, perché vuoi un contatto umano, vuoi sederti, vuoi staccare, vuoi... Nel mio caso, nel senso, io sono diventato assiduo frequentatore post lockdown, era un momento di solitudine per me, tante volte venire qua, avere un contatto scarico, che poi questo rapporto, non lo so, è quasi un topos letterario, no? La barista, no? il rapporto che tu hai con questo essere a metà tra lo psicologo e che ascolta tutto e non dice niente, no? Dove tu ti senti libero e lontano da quello che è il resto della tua vita, un territorio neutro, un territorio scarico, un territorio poi dove noi ci siamo incrociati, insomma, più o meno, comunque noi ci conosciamo grazie a questo bar, no? E quindi se vuoi anche di socialità, quindi positivo, quindi diciamo tutto il contrario invece di quanto dicessi invece che era relegato al problema dell'alcol, che invece ti porta quasi di più ad isolarti, a pensare a te stesso, anzi questo se vuoi è quasi invece un antidoto nonostante sia bevendo, ecco, però non sono venuto qua per bere, anzi avevo già aperto una bottiglia di vino a casa mia che ho poi chiuso, quindi quando sono negativo bevo anche da solo, onestamente. Quindi già invece il fatto di uscire, secondo me, è una cosa che a noi manca. Cioè, viviamo... Adesso anche qua sembrerà molto una semplificazione, ma se io penso ai miei genitori, quando loro erano giovani, insomma, più o meno intorno ai 20 anni, diciamo tra i 18 e i 30, volendo allargare molto, comunque c'erano due istituzioni molto forti. C'erano l'oratorio, la Chiesa Cattolica, comunque aveva un, lasciando stare una parte, diciamo, più spirituale, era anche forte centro d'aggregazione, dove andavi all'oratorio per qualche motivo, no, non per pregare, non per fare, semplicemente perché era occasione di trovarsi con chi magari non lo sapevi neanche, però sapevi che lì qualcuno avresti trovato, qualcuno con cui poi potevi fare, condividere. D'altra parte c'erano invece in realtà più di associazionismo, diciamo, più vicine alla sinistra, che però tanto quanto avevano una funzione aggregante. Colpito molto di questo bar è che comunque è una realtà ancora molto legata al territorio, dove le facce che vedi sono sempre le stesse, quindi non è più il bar classico di Milano dove tu entri, consumi e non vedrai mai il barista non sa chi è, quindi invece qua in qualche misura crei un rapporto, anche solo fatto poi di sguardi, magari con anche gli altri avventori, con qualcuno ti conosce, penso a Egidio, no? Insomma, ci siamo conosciuti qua, poi è sempre anche un'occasione di incontrare anche realtà molto diverse, perché il bar è molto trasversale, eterogeneo, uno spaccato, nel senso, per quanto vabbè siamo sicuramente in una periferia, quindi non avremo mai lo stesso ceto che potresti trovare in un bar del centro, però comunque taglia tanto per quante sono le fasce d'età, per quanto poi sono le condizioni, quindi anche una cosa che comunque ti permette, io da quello che mi ricordo anche, io ho lavorato in un bar dai 17 ai 18 anni, ho lavorato tanto perché c'era quello che allora era mio cognato, il compagno di mia sorella, che lui aveva in gestione un bar. E io, se penso, un'esperienza, diciamo, che ha avuto anche tanti lati scuri, indubbiamente, perché facciamo una vita molto sopra le righe e non è stata benefica a me, però sicuramente se devo trarne un valore da quello che è stato quello, è stato per me aver avuto l'occasione di vedere tantissimi mondi che passavano, tantissimi modi di vivere la vita, no? Ma modi poi anche non tanto potenziali, quindi che potevo vedere nella mia età, no? Ma modi in qualche misura già avvenuti, quindi persone che facevano un certo stile di vita, che voleva dire tante scelte, nel senso del lavoro che fai, a come decidi di spendere i soldi, le relazioni che hai, se hai o meno figli, le considerazioni che facevi, il modo in cui trattavi il barista o le persone che ti stavano attorno. E quindi a me questa è stata una cosa che invece, comunque, essendo nato in una famiglia che aveva una determinata tipologia di amici, vivendo in una scuola, oltretutto era privata, quindi comunque con un forte taglio, mi ha permesso invece di avere una visione, cioè di scoprire che il mondo era molto più vario rispetto a quello che avevo visto, nel bene e nel male, quindi con anche tante possibilità poi di sbagliare. Però sicuramente questa è la cosa che più apprezzo del bar, no? Questa eterogeneità, questo quasi suo essere indiscriminante, essere aperto a tutti, no? Essere un luogo di ritrovo. Quindi quello che riflettevo tantissimo, adesso non mi ricordo neanche più chi l'ha detto, quindi non mi voglio assolutamente appropriare indebitamente di una citazione non mia, però quello che ci definisce non è tanto quando noi troviamo qualcosa che è simile, ma noi ci definiamo quando troviamo qualcosa che è diverso, quando c'è qualcosa che stride e impatta, è lì che secondo me inizia a formare un po' il tuo carattere, comunque ad avere più consapevolezza di cosa sei te, cioè è il nemico, se vuoi, quello che davvero ti dà qualche cosa nella tua vita, non tanto chi la pensa come te, perché diventa scontato e banale, no? E quindi per me invece avere appunto tanti modi di vedere, quindi che di essere messo in continuamente in discussione su tanti aspetti, io avevo sempre dato per scontato che pensavo che ci fosse un unico modo di fare. Questo è sicuramente l'aspetto che più del bar io apprezzo, no? Questa sua assoluta eterogeneità e quindi mondi diversi che in alcuni casi un incontro ed è piacevole, no? Poi andando avanti con l'età cerco sempre più di trovare i punti in comune che non quelli che mi permettono. Da ragazzino ero molto più difficile, quindi trovavo sempre difetti, no? Adesso invece è fin troppo facile trovare, cioè se io dovessi anche guardandoti, no? O facendo una valutazione sommaria della tua vita che non ti conosco, trovare qualche cosa che non mi va bene, per cui lo troverei, ma cioè, reciprocamente, non è che voglio rogare nulla, però invece è bello anche cercare un pochino un punto d'incontro, no? Comunque anche poi, anche perché poi tante volte appunto poi crescendo vuol dire anche magari abbandonare delle sue idee, rendersi conto che le cose che tanto ti davano fastidio poi in verità magari non per forza le hai abbracciate, ma le hai capite vedendo in un'altra luce, vedendo un'altra esperienza. Quindi è sempre molto facile giudicare rispetto a quello che non conosciamo, quello che ci dà fastidio e ci fa paura, mentre secondo me è importante invece cercare un punto di incontro, che poi non vuol dire svendersi o piegarsi all'altro, cioè uno comunque resta anche abbastanza poi sereno sulle sue capacità. È una cosa che mi ha fatto capire che stavo diventando grande, se vuoi, no? Perché secondo me la cosa bella è che io il fascino, frequentandolo tanto e lavorandoci, lo perdi, però secondo me che il bar ha è che comunque è un posto un po', da un lato un po' mistico, e poi mistico vuol dire tutto, vuol dire niente, ma un po' anche dove succedono una serie di robe che tu a casa tua non fai. Cioè a me l'altro giorno che mi è capitato di lavorare qui, c'era una bambina seduta a quel divanetto con, insomma, c'erano dei genitori che erano venuti qua a bere, simpatici, carini. C'era questa bambina che aveva 6 o 7 anni, che evidentemente poi non aveva suoi coetanei, quindi non era una situazione per lei idilliaca, e mi chiede cosa volesse bere, non lo sapevo neanche. Allora io con molta gentilezza gli diamo una serie di idee e sceglie la Sprite. E lì ho capito che cosa vuol dire fare il, cioè non è che ho capito, ma mi ricordo perché a me piace fare il barista, che non è tanto venderti la Sprite, che puoi bere 100 altre volte nella tua vita in miliardi di forme, puoi bere alla festa dei tuoi amici del bottiglione, ma è creare un'esperienza unica. Quindi non so per quale motivo poi mi sono affezionato a lei, allora ho creato anche tutta una gestualità esageratamente barocca, cioè che è stata quella di porre prima il tovagliolino, metterle il bicchiere con la guarnizione, che è assolutamente un fatto inutile, che però crea. E poi ho chiesto se voleva una cannuccia e gliel'ho portata, e lei era contentissima. Tu non gli stavi vendendo una cosa che andava ben oltre quella che era la Sprite in sé, ma è secondo me tanto anche a che fare col fatto di essere serviti, di essere trattati oltre le proprie aspettative, no? Questa secondo me è un po' anche la cosa bella del bar. A me una volta, se ci penso, in un bar dove ho speso una cifra senza senso, perché ero a Roma con un mio amico in quello che non è neanche un bar, un circolo privato che non ha vetrine, si ha accesso solo su prenotazione dopo essersi iscritti, è uno dei bar sicuramente tra i, diciamo, quelli dove fanno i cocktail migliori in Italia, e anche rinomato in alcune guide, insomma, mondiali. Abbiamo speso 72 euro in due per esserci bevuti tre cocktail, ma era un'esperienza che era così unica, da come era stata curata la location, l'illuminazione, il servizio, come tutto fosse curato nei dettagli, che era un'esperienza che durava delle ore che noi siamo stati lì dentro, che io ero contentissimo di aver speso i miei 36 euro, perché riconoscevo tanto valore che andava oltre ovviamente a quello che io stavo bevendo, ma che era stato la costruzione coerente di tutto un mondo, di tutta un'immersione, di tutta un'esperienza, che poi una cosa consumistica, cioè parlare di nulla, adesso sto celebrando una cosa che è un fatto assolutamente stupido, però quando secondo me tu riesci a creare, comunque stai facendo un'attività commerciale che non è fatta solamente della mescita, cioè non sei un supermercato, no? Un bar è un fatto anche poi di interazione con chi ti serve, che non vuol dire per forza un rapporto verticale, cioè io ti pago allora tu mi servi, però comunque si crea questa cosa, si crea il fatto che un bar ti piace per come è arredato, cioè è tutto una costruzione che secondo me, se è ben riuscita, se è coerente, cioè nel senso, sai, se mi vendo in una certa maniera e poi ti tratto male, oppure se poi c'è una musica che la percepisco come dissonante rispetto alla posizione, creo una situazione che non è gradevole, no? Mentre secondo me il bar è anche poi, i bar che mi piacciono di più sono quelli appunto in cui si crea tutto questo, un'identità molto forte, che poi ribadisco, sto celebrando una cosa che è un fatto molto futile se vuoi nella vita, però siccome stiamo parlando di bar, secondo me è questo quello che mi piace, no? Quando trovi un'esperienza in cui il bere è sicuramente centrale, comunque quello che ordini è importante, ma è supportato anche da altri, che poi secondo me un po' giustifica o meno il prezzo, giustifica o meno l'esperienza, comunque impatta tanto, banalmente la disposizione dei tavoli, che fa anche poi tanto un senso di privacy che tu hai nei confronti del, cioè insomma, secondo me sono tantissimi gli aspetti che noi magari non pensiamo, banalmente gli odori o l'illuminazione, no? Secondo me sono tanti i fattori, motivo per cui appunto ti colpisce nell'immaginario quello che tu dici, no, la divisa del signore che ti offre nella pasticceria. Però anche questo è un fatto che rientra nel fatto che tu la brioche la stai prendendo lì, non è la stessa brioche che tu dovresti mangiare a casa tua da sport, è un'esperienza differente. Ma secondo me, se vogliamo di nuovo tornare nello specifico, nell'imminente, smettere di parlare così in termini astratti e assoluti, qua c'è anche l'aspetto poi, perlomeno da parte mia, relazionale con le persone che sono diventate delle amiche, con alcuni avventori, quindi poi vabbè, questo entra anche in un piano che se vuoi un po' meno superficiale e banale, no? Quindi sì, bene, bello, l'estetica, bella roba, però che mi resta invece poi il contatto umano, forse, o comunque la socialità, la possibilità di incontrarsi, sicuramente un fatto, diciamo, un pochino più significativo, insomma, comunque, che ti lascia qualcosa di più al di là, diciamo, del piacere edonistico, ecco, di aver fatto questa esperienza, che però, insomma, se è solo quello, poi nella tua vita non è che ti dia sto granché. Sì, è bello, è piacevole, no? Però non è sostanziale. Non è che voglio a tutti i costi denigrare e dire che mangiare il riso bianco, siccome alla fine il gusto non apporta nulla di sostanza nella tua vita, sia la via corretta. Cioè, sicuramente è anche bello questo, però non vorrei neanche dare troppo peso a queste cose quando parlo, apparire come molto superficiale. Cosa che mi piace è il bancone là dietro, quando ogni tanto il locale è molto pieno mi metto lì, che invece è totalmente avulso dalla realtà e mi permette di sedermi, di essere, quindi avere il contatto con il banco e vedere tutto, ma di essere invece totalmente isolato, no? Cioè, sto cercando sempre cose che isolano, ecco, sì, sicuramente a me non piace l'idea della tavolatona, non mi piace l'impressione di essere alla mercé. L'ultima cosa che secondo me è molto poetica è la colonna in mezzo. E questo allora, guarda, mi attacco e mi rendo conto che sono veramente schifosamente rufiano e con la lingua lunga, di un'altra piccola riflessione che portavo avanti nei mesi scorsi, no, che non è totalmente centrata, però in qualche misura sì, perché questo di quanto i vincoli nella propria vita, in tutte le esperienze, tante volte sono necessari, cioè che quando tu hai tutte le possibilità davanti, tutta la carta bianca, non riesci davvero ad esprimerti concretamente. Questo lo leggevo anche in un libro di Bruno Munari, Da cosa nasce cosa, bellissimo, su tutto, cioè che soprattutto la prima parte che lui racconta il suo processo creativo. Lui dice, la creatività viene, e se vuoi la parte geniale, no, del pensiero, una volta che tu hai riconosciuto tutti i vincoli delle cose, devi trovare il modo di muoverti entro essi, no? Ma non è un avere un foglio indefinito davanti in cui puoi fare quello che vuoi, ma invece avere tutta una serie di robe che sembra quasi una limitazione, invece diventa la chiave per poterti esprimere per davvero. È un po' un paradosso, no? Però di come tante volte aver avuto delle restrizioni, no? Delle imposizioni, delle difficoltà o comunque un perimetro in cui muoversi ti permette di invece di andare ben oltre, cioè tante volte quanto un difetto o un apparente problema poi diventa, non dico che ti aiuta, perché evidentemente non ti aiuta, perché non è spazio che hai, che però ti permette di non so, il tavolino qua che si può piegare, quindi appeso a questa colonna, no, che permette di creare una postazione all'occorrenza, di renderlo libero, è una soluzione intelligente che nasce da una necessità, che è quella di dare un'utilità, di dare uno spazio a questa posizione, che è un'idea molto intelligente, uno spazio modulare, oltretutto, quindi può esserci o non esserci, e quindi forse quasi un valore aggiunto, no? Che però nasce da un evidente impedimento su cui non ci potevi togliere, questo che non so neanche se è una colonna o un pilastro, però comunque il fatto che all'interno di un bar ci sia un'ostruzione architettonica sicuramente un po' colpisce, no? Per quanto si cerchi di dissimularla. E però questo si rifaceva molto questo mio pensiero che mi è caro, e di quanto ad esempio io, se penso alla quarantena, dove avevo tutte le possibilità di fare, riuscivo a fare, se vuoi, poco, no? Forse perché appunto non avevo un riscontro con la realtà, non avevo delle tempistiche che mi erano esposte, perché non stavo lavorando, non avevo tutto a mia disposizione. In alcuni momenti, imponendomi delle regole, riuscivo a fare tanto. Quando poi invece diventava un senso d'assoluto, io in questo mi perdevo, cioè non riuscivo neanche più poi a valorizzare quella singola ora, quelle due ore, perché buttate all'interno di un mare, di un continuum, di diciamo non limitato da nulla, no? Strana come cosa, cioè che quanto io mi senta libero solo o comunque efficace solo quando in qualche modo inserito all'interno di delle barriere. Però penso che sia in qualche modo l'esperienza un po' comune, no? Per quanto diciamo così idealmente paradossale.